Capitolo 46esimo. Tereo. Tereo, un figlio di Ares, governò sui traci che allora occupavano Daulide nella Focide, benché altri dicano che egli fosse re di Page nella Megaride, e poiché si assunse la parte di arbitro in una disputa sorta a proposito di certi confini territoriali, Pandione, re di Atene, padre dei gemelli Bute ed Eretteo, gli diede in sposa sua sorella Procne, dalla quale Tereo ebbe un figlio, Iti. Sventuratamente Tereo, sedotto dalla voce della figlia minore di Pandione, Filomela, si innamorò di lei, e un anno dopo rinchiuse Procne in una capanna presso il palazzo e annunciò a Pandione la notizia della sua morte. Pandione, associandosi al dolore di Tereo, generosamente gli offrì in sposa Filomela, perché sostituisse Procne e la fece scortare fino a Daulide da guardie del corpo ateniesi. Tereo uccise le guardie, e prima ancora che Filomela giungesse al palazzo dove si dovevano celebrare le nozze, l'aveva già costretta a giacersi con lui. Procne fu ben presto a conoscenza dell'accaduto, ma per misura di precauzione Tereo le fece tagliare la lingua e la segregò nel quartiere degli schiavi. Procne tuttavia riuscì a inviare un segreto messaggio a Filomela, intessendolo nel manto nuziale a lei destinato. Il messaggio diceva: Procne si trova tra gli schiavi. Frattanto un oracolo aveva avvertito Tereo che Iti sarebbe morto per mano di un congiunto e, sospettando che suo fratello Driante tramasse per impadronirsi del trono, Tereo lo uccise a tradimento con un colpo d'ascia. Quel medesimo giorno Filomela lesse il messaggio intessuto nel manto nuziale. Si precipitò allora nel quartiere degli schiavi, trovò una porta sbarrata, la fece abbattere e liberò Procne, che balbettava in modo inintelligibile e correva in tondo. «Ah, potessi vendicarmi di Tereo, che ti disse morta e mi sedusse!» gemette Filomela. Procne, priva della lingua, non poté rispondere, ma si impadronì di Iti, lo uccise, lo sventrò e lo fece bollire in un calderone di rame per darlo in pasto a Tereo al suo ritorno. Quando Tereo si rese conto di aver mangiato la carne di suo figlio, afferrò l'ascia con la quale aveva ucciso Driante e inseguì le due sorelle che erano fuggite dal palazzo. Ben presto le raggiunse e già era sul punto di commettere un duplice omicidio quando gli dei li trasformarono tutti e tre in uccelli. Procne divenne una rondine, Filomela un usignolo e Tereo un'upupa. E i focesi dicono che le rondini non osano nidificare a Daulide o nei dintorni e gli usignoli non cantano in quei luoghi per timore di Tereo. Ma la rondine, che non ha lingua, strilla e vola in tondo mentre l'upupa l'insegue gridando «Pou, pou, dove, dove?». L'usignolo invece si è rifugiato ad Atene dove piange Iti, di cui provocò involontariamente la morte, e canta «Itu, Itu». Altri dicono che Tereo fu trasformato in sparviero. Questa stravagante favola pare sia stata immaginata per dare una spiegazione a una serie di affreschi tracio-pelasgici trovati dagli invasori focesi in un tempio a Daulide, irsuto, e che dovevano illustrare i diversi metodi oracolari usati localmente. L'episodio della mutilazione di Procne è forse un'erronea interpretazione di una scena in cui si vedeva una profetessa che cadeva nella trance profetica dopo aver masticato foglie di alloro. Il suo viso è stravolto dall'estasi, non dal dolore, e la lingua che pare le sia caduta di bocca è in verità una foglia di alloro offertale dal sacerdote incaricato di interpretare il suo incoerente balbettio. La leggenda del messaggio intessuto nel manto nuziale è anch'essa dovuta all'erronea interpretazione di un'altra scena. La sacerdotessa ha gettato una manciata di bastoncini oracolari su un panno bianco, al modo celtico come ci è descritto da Tacito o a quello scitico come è descritto da Erodoto. I bastoncini hanno assunto la forma di lettere e la sacerdotessa si prepara a interpretarne il significato. L'episodio di Tereo che mangia Iti è ispirato da una raffigurazione in cui si vedeva la sacerdotessa del Salice trarre auspici dai visceri di un fanciullo sacrificato in onore del re. La scena di Tereo e dell'oracolo probabilmente è costruita su un'altra che mostrava il re nel tempio addormentato su una pelle di pecora in attesa di un sogno rivelatore. I greci non avrebbero dovuto sbagliare in questo caso. La scena, interpretata poi come la morte di Driante, probabilmente mostrava una quercia a un sacerdote che traeva auspici al modo druidico dalla posizione assunta dal corpo dell'uomo sacrificato. La leggenda della metamorfosi di Procne in rondine fu dedotta da una scena che mostrava la sacerdotessa rivestita di piume che traeva auspici dal volo di una rondine. Un'erronea interpretazione di scene analoghe ispirò la leggenda della trasformazione di Filomela in usignolo e di Tereo in upupa. Il nome di Tereo, colui che osserva, fa pensare a un augure maschile raffigurato accanto a un'upupa. Possiamo supporre l'esistenza di due altre scene, quella di un eroe oracolare dal corpo terminante in serpente, cui si offrono sacrifici cruenti, e di un giovane che consulta un'ape oracolare. Codesti personaggi sono rispettivamente Eretteo e Bute, il più famoso apicoltore dell'antichità, fratelli di Procne e Filomela. La loro madre era Zeusippe, colei che aggioga i cavalli, cioè una Demetra dalla testa di giumenta. Tutti i mitografi, tranne Igino, fanno di Procne un usignolo e di Filomela una rondine. Ciò si deve interpretare come un maldestro tentativo per correggere un errore fatto da qualche poeta precedente, e cioè che Tereo tagliò la lingua di Filomela e non di Procne. L'upupa è un uccello regale, perché ha una cresta di piume e si adatta molto bene alla leggenda di Tereo, in quanto il suo nido emana un orrendo fetore. Secondo il Corano, l'upupa rivelò a Salomone segreti profetici. Dauride, in seguito chiamata Focide, pare fosse il centro di un culto degli uccelli. Foco, l'eponimo fondatore del nuovo stato, era chiamato figlio di Ornizione, uccello della luna, e un re di epoca più tarda fu chiamato Suto, passero. Igino dice che Tereo divenne uno sparviero, uccello regale in Egitto, in Tracia e in Europa nord-occidentale.